farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, belle belle turbanti il riposo, narcisetto aloncino d'amor. Belle belle curvando il riposo, narcisetto aroncino d'amor.